Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Insegno nei licei da più di 20 anni. Scelsi per passione gli studi letterari contro le aspettative dei miei genitori, poveri artigiani, i quali, alla luce del mio brillante percorso scolastico, pressavano perché io scegliessi una professione più prestigiosa e remunerativa. Che io abbia sempre dato il massimo e raggiunto la lode, e io sia apprezzato e richiesto da studenti e genitori, nella scuola conta economicamente nulla. La riconoscenza che ogni giorno leggi negli occhi dei tuoi alunni non ha prezzo, ed è solo quella che può far digerire ad un professionista di essere retribuito come un impiegato di concetto. Ma la scuola italiana è messa peggio degli altri comparti del pubblico impiego. È un mezzo di socialismo reale. Entri ed esci col 7° livello, tutti gli altri dipendenti statali, se laureati, sono inquadrati all'8° livello. E non ci sono concorsi interni, non ci sono straordinari o premi di produttività. L'unico avanzamento scatto contributivo si ha per anzianità di servizio ogni 7 anni. Non è beffardo bloccare per 3 anni anche quella sola forma di aumento stipendiale? Con 22 anni di anzianità, di cui 18 di ruolo, considerate le addizionali IRPEF, percepisco poco più di 1.500 euro. A gennaio avrei avuto un aumento di almeno 150 euro che attendevo da 7 anni. Lo slittamento non sarà più recuperato e a fine carriera non potrò entrare comunque nell'ultima fascia retributiva, con conseguenti ricadute negative sul TFS e sulla pensione. Qualcuno parla di macelleria sociale, ma io penso che l'espressione sia offensiva per i macellai, i quali almeno sanno usare criterio e attenzione per quanto riguarda la qualità del taglio. Sono consapevole che viviamo in tempi assai difficili e che le spese dovranno essere drasticamente ridimensionate. Ma vi sembra possibile accettare questi tagli mentre vi sono in ogni dove affitti clientelari, ospedali con 20 posti letto che regalano lo stipendio a 108 medici, province che elargiscono al più onesto dei consiglieri 2.000 euro al mese in gettoni di presenza, CDA di enti statali e parastatali i cui componenti percepiscono non meno di 4.000 euro al mese e via sciorinando, in un elenco infinito di concessioni e ruberie? E nella stessa scuola, perché tagliare gli stipendi quando si sprecano decine di milioni di euro per progetti che spesso non hanno alcuna ricaduta positiva sulla didattica? Vito. Gentile professore, la scuola merita la massima attenzione non solo a livello di risorse economiche comunque importanti, anche per la dignità e l'autorevolezza che deve avere ogni docente a cui è affidata l'educazione dei giovani. I giovani sono la risorsa centrale della nostra società. Dobbiamo trovare tutti i mezzi perché possano sviluppare i propri talenti e partecipare a pieno titolo alla crescita sociale. Per questo alla scuola dovrebbero essere destinati i minori tagli possibili. Ha ragione, in primo piano devono essere i tagli ai costi della politica, su cui invece si sta operando con troppa timidezza, come dimostra l'assurda vicenda dell'abolizione delle province. Assurda, perché è inutile abolirne 4 o 5 quando andrebbero abolite tutte. La soluzione sulle intercettazioni l'ha indicata un magistrato qualche mese fa. Deve essere impedito l'uso delle intercettazioni come prova, in modo da evitare che arrivino alle aule di tribunale. Devono essere usate solo come supporto di indagine, alla stregua delle informazioni fornite da confidenti. E come queste, dovrebbero stare solo nella cassaforte del magistrato o del responsabile della forza di sicurezza incaricato dell'indagine. In questo modo si permetterebbe di intercettare chiunque e di aiutare a scoprire, pertanto, gli illeciti. Ma in caso di fughe di notizie, sarebbe molto più semplice risalire alle responsabilità. Se le intercettazioni arrivano in aula, è impossibile impedirne la pubblicazione. Pierre. Voto di fiducia. Provvedimento blindato. Ma è mai possibile che all'interno della maggioranza non ci sia qualcuno che la pensi diversamente e che abbia il coraggio delle proprie azioni e delle proprie responsabilità? Le chiacchiere e i buoni propositi sono dimenticati, il dissenso tanto sbandierato è neve al sole, la scusante che il governo potrebbe andare in crisi è banale. Un governo non può andare in crisi per una legge che mette il bavaglio all'informazione e mette dei freni alle indagini. Siete ancora in tempo, ripensateci. Massimo Arezzo. Gentile direttore, si sta attuando in modo subdolo e criminale l'ennesima beffa in danno delle donne. La pensione a 65 anni in vigore da subito, strafregandosene dei diritti acquisiti e della programmazione che una donna aveva già fatto della propria vita. Io spero e voglio credere che i sindacati, se sono ancora tali, si oppongano a questo assurdo modo di fare. Antonio. Egregio direttore, alcuni giorni fa lei rispose correttamente ad un ascoltatore che, citando Dante, metteva in discussione l'aumento della vita media e il conseguente aumento dell'età pensionabile. Le donne che, vivendo oltre 80 anni, hanno innalzato il valore statistico, sono nate a inizio Novecento e hanno vissuto in condizioni completamente diverse da quelle attuali, ed è ancora da dimostrare se fossero peggiori. Siamo così sicuri che una donna nata nel 1980 avrà una vita media di oltre 85 anni, se sarà costretta a lavorare fino ai 65 e in futuro probabilmente fino a 70, considerando i ritmi di vita attuali, l'alimentazione sregolata, lo stress, l'inquinamento? Quello che metto in discussione io è che baby pensionate a 38 anni e vissute poi fino a 80 obbligheranno le loro nipoti a lavorare fino a 65 e magari a vivere meno di loro, mentre gli istituti di statistica ci metteranno molti anni prima di rilevare l'inversione di tendenza, senza considerare poi che la flessibilità del lavoro moderno farà sì che i contributi previdenziali versati saranno divisi tra INPS dipendenti, INPS gestione separata, INPDAP e magari anche qualche altra cassa professionale, oltre ad assicurazioni private e fondi pensione, con non poche difficoltà nel totalizzarli in un'unica pensione dignitosa. Emanuele. Egregio direttore, si parla tanto di abolire le province, ma in base ai parametri proposti, solo 3 o 4 province potrebbero essere abolite, con un risparmio veramente ridicolo. Io invece proporrei il mantenimento di tutte le province. Infatti abolirei i comuni con meno di 800 o 1000 abitanti e farei gestire questi comuni direttamente dalle province. In questo modo le province diventerebbero un grande comune e si avrebbe un'economia di scala veramente rilevante. Infatti i comuni con meno di 1000 abitanti sono molti. In questo modo si avrà una migliore distribuzione dei compiti e di accentramento della spesa, con ritorni economici rilevanti. Ogni comune abolito dovrà avere almeno un consigliere nel consiglio provinciale. Credo che i politici non vogliono perdere i loro posti da sindaci, consiglieri, segretari comunali e così via. Spero che un giorno, non troppo futuro, i nostri politici inizino a pensare di più al bene comune. Gianni. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.